se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Io dico sempre la verità, anche quando dico le bugie. Non mi ci sono candidato, quindi non mi ha fatto neanche comodo. Con che cosa non ti sei candidato? Potete andare avanti a parlare tranquillamente. Con che cosa non ti sei candidato? Col Porcellum? Col Porcellum? Ah, tu non sei mai stato eletto col Porcellum? Cioè, tu non sei stato mai eletto col Porcellum? Ma poi me ne sono andato. No, Massimo, ma che te ne sei andato? Ma che stai dicendo? Ma mandiamola in diretta qui. Ma che mandiamola in diretta, eh? E quando mi dicono tu sei l'autore del Porcellum, il Porcellum c'ha delle papà, delle mamme, degli zii e dei nipoti, si chiamano Berlusconi, Fini e Ciampi. Io ho fatto uno sciopero della fame perché fosse mantenuto l'impegno di modificare il Porcellum. Cioè, se uno fa la battaglia per il collegio uninominale e poi esulta per l'Italicum, era meglio Massimo, che mangiavi la porchetta. Massimo, per 60 puoi giorni. Continuare, stai Massimo, meglio. Puoi continuare. Sono riusciti a inventarsi l'unica legge elettorale con cui riesce a vincere Grillo senza avere la maggioranza nel paese. Bisognerà essere coglioni per riuscire a scrivere una cosa del genere. È il papà del Porcellum, è Calderoni. State tranquilli, cari amici, se alle 6:30 minuti vi è già venuta una nevralgia fulminante perché avete sentito combattere sulla legge elettorale un po' dei politici, è assolutamente normale. Siete voi i normali. Siete voi con il vostro mal di testa i normali. State tranquilli. Sono loro quelli strani. Tranquilli, tranquilli. Vi voglio tranquillizzare. Eccoci qui, signori, una nuova puntata di 24 mattino che riparte con Peter Bescapè in regia, col nostro Lorenzo Nespoli in redazione. Stavamo discutendo qui del fatto che a Mariano Comense, che è una ridente località vicino a dove abita Lorenzo Nespoli, c'è stata una partita di pulcini, quindi età 10 anni di calcio, sospesa per rissa dei genitori sugli spalti. E Lorenzo Nespoli dice: guarda, mi ricordo anch'io quando sono andato a vedere una volta una partita a Mariano Comense, sono matti a Mariano Comense, ti attendono tutti con grande ansia, caro Lorenzo, sono pazzi a Mariano Comense, si picchiano per le partite dei pulcini. Vabbè, dai. Allora, sono le 6:32 minuti, signori. Siamo qui, intanto voglio salutare, a proposito di calcio, un uomo sorridente, un uomo allegro, un uomo contento, finché non ci sarà la prossima partita, il nostro Alessandro interista Robecchi. Buongiorno a tutti, ben ritrovato. Buongiorno Milan. Come va? e viviamo la giornata, non facciamo piani, domenica per domenica, eccetera. È giusto così. Però quando si tratta di battere la Juve va bene anche l'Inter, va bene tutto. Io tengo all'Inter e a tutte le squadre che giocano contro la Juve. Certo, sì. Tutti tengono a N squadre i non juventini, si sa. Allora, insieme a Alessandro Robecchi, anche firma del Fatto Quotidiano, attenzione, oggi dobbiamo salutare, caro Alessandro, tu lo sai, tu leggevi la Pravda? Come no, certo. Abbonato alla Pravda, un comunistone come te, si sa. Meno male che poi adesso con Google Traduttore la leggerai meglio. Esatto, effettivamente sì. E allora per un comunistone come te esce oggi un nuovo quotidiano, nasce un nuovo giornale, direttore Maurizio Belpietro, il condirettore, il nostro amico Massimo De Manzoni che torna con noi. Massimo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, eccolo qui, La Verità. Perché la Pravda, poi questo vuol dire, no? Verità, quindi eccola qua, la verità, la Pravda. Sì, la Pravda, ma infatti ci prendiamo già in giro in prima pagina da soli. Ecco, esatto, la verità. Spieghiamo perché ci siamo chiamati così. Vi devo dare, perché vi siete chiamati così? Ma è un po' una provocazione, con dei pazzi che fanno un giornale di questi tempi non è che possono passare inosservati. E un po' è, anzi molto, la principale è che con una testata così il nostro impegno quotidiano col lettore è rinnovato in maniera piuttosto forte, ecco, insomma, prima di raccontare balle bisogna che ci pensiamo molte volte sopra, per cui esatto, uno va in edicola, mi dia la verità, grazie, chissà, mi dia la verità. Ma sai, siamo favoriti da un fatto, non abbiamo un editore, abbiamo un po' di imprenditori, ma anche giornalisti che hanno creduto nella nostra impresa, sì. Come abbiamo fatto al Fatto Quotidiano, abbiamo versato delle quote ed ecco qua, quindi siamo abbastanza padroni noi stessi, se non diciamo la verità almeno sappiamo che prendere. Con noi, con voi stessi, è colpa nostra. Mi sembra giusto. Allora, ovviamente, in bocca al lupo, dobbiamo aprire il Parlamento e chiacchierare. Allora, ragazzi, chiacchierare. Se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma... Forza, gente! Allora, qua diciamo, non abbiamo due amici di Renzi. A meno, non so, Robecchi, è successo qualcosa quest'estate? Sei diventato amico di Renzi? L'ha incontrato? No, vabbè. Ma soprattutto lui non è diventato amico mio, quindi siamo pari, ecco. Siete pari, uno e uno palla al centro. Però devo dire una cosa, questo Renzi che fa un po' la voce grossa con l'Europa, almeno sulla questione degli immigrati, ancora adesso è a New York, dove c'è l'Assemblea dell'ONU, a dire questa Europa che fa solo chiacchiere, è una cosa che insomma si sentiva più da Salvini. E invece adesso è Renzi che dice ci hanno abbandonato sull'Africa, sulla cooperazione con gli stati, adesso ci troviamo tutti gli immigrati qui in casa. Robecchi, ti piace? È una stai mossa parlando tattica. Del Renzi di Bratislava, tu? Sì. Non di quello di Ventotene? No, esatto. No, perché ce n'è due o tre, devi sempre dire di chi stai parlando. L'ultimo, l'ultimo in ordine di tempo. Quello. Ah, l'ultimo in ordine di tempo, ma l'ultimo in ordine di tempo in linea di principio non ha torto, cioè è vero che un fenomeno planetario come quello dell'immigrazione viene affrontato a pezzettini, staccando il problema ungherese da quello mediterraneo, da quello siriano, che è un'assurdità, però è anche vero che la mossa è talmente repentina che è difficile pensare che non sia funzionale, no? Forse sì. Renzi, che si gioca veramente tutto con il referendum, pensa che battere un po' i pugni sul tavolo con l'Europa gli possa portare qualche voto in più, che scappa dal fronte del no, dai 5 Stelle, anche dalla destra, perché no? E quindi, insomma, cioè io faccio sempre un po' fatica quando vedo delle svolte così a testa coda a credere che siano meditati. Anzi, ti dirò, mi sembra tutto talmente sull'onda, diciamo, della contingenza, che penso che pur in linea di principio con qualche ragione, ma sia deleterio andare avanti così a strappi. Sì. Una volta viva l'Europa, siamo tutti uniti, che bravi, dopo 15 giorni l'Europa ci sta abbandonando. No, ma infatti non mi sembra un atteggiamento da statista. Qualcuno dice che è una manovra un po' a dire, siccome l'Europa in realtà ci castiga e ci fustiga un po' sui conti in vista della legge elettorale, cominciamo a dire che l'Europa è un po' brutta e cattiva. Non so, De Manzoni, però... Ma io sottoscrivo quello che ha detto Robecchi, perché non più tardi di un mese fa bastonava invece in Italia chi parlava di emergenza immigrati dicendo non c'è l'emergenza. Allora non è che questo, per la verità, l'ha ribadito anche ieri dicendo i numeri sono questi, non è così seria la situazione. E invece la situazione è abbastanza seria e lui se ne ricorda solo quando gli fa comodo per fare uno scambio o cercare di fare uno scambio in Europa su altre questioni. Questa è la sensazione che dà, perlomeno, proprio perché altrimenti la situazione si affronta sempre nello stesso modo, sia in Italia, dove l'emergenza un pochettino c'è, basta scendere alla stazione centrale di Milano per rendersene conto, senza andare in posti che sono ancora più infernali, voglio dire, perché abbiamo appena imparato del Cara di Foggia e di altre situazioni assolutamente ingovernabili, ma basta proprio scendere alla stazione di Milano per rendersi conto che la situazione è un attimino degenerata e così in Europa, dove il flusso si è interrotto improvvisamente perché la Merkel ha fatto i suoi accordi miliardari con il signor Erdogan. Ma gli sbarchi invece continuano e quindi l'emergenza continua. E soprattutto ci sono quei paesi dell'est che non vogliono la ripartizione delle quote. Ma ora attenzione, arriva la novità, annunciata 2 giorni fa dal Corriere della Sera. C'è la nuova task force, da Palazzo Chigi tutto centralizzano e ci sarà presto la nomina del commissario per i rifugiati. Ma perché in Italia, quando bisogna fare una cosa, ci fa il commissario? Chiamiamo Cantone. Sarà Cantone ovviamente. Cantone. Cantone. Ma poi è una notizia nuova che Palazzo Chigi centralizza, eccolo lì. Il commissario, quando non sai cosa fare, fai una bella task force con un bel commissarione e via. E sì, che ai tempi della Pecora Dolly, secondo me, anzi passati 20 anni dalla Pecora Dolly, questo Cantone lo potrebbero anche clonare, perché non è che può fare tutto da solo. Effettivamente. Facciamo un cantone. Se lo bagnano dopo mezzanotte si raddoppia. Fate un altro cantone, 2 cantoni. Giochiamo ai quattro cantoni. Almeno siamo a posto e risolviamo e mettiamo a posto l'Italia. Tutto. Se proprio vogliamo ascoltare le parole dello statista, un grande statista italiano, Antonio Razzi, c'è il consiglio a Renzi da parte di Razzi. Sentiamo. Io, se ero io per Renzi, gli avessi detto: caro Hollande, cara Merkel, cominciate a fare i cazzi vostri, perché qui i cazzi miei me la vedo io in Italia, ed è giusto che gliel'abbia detto. Su questo, no, ma non gliel'ha detto così. Io gli avrei detto ed è giusto che gliel'abbia detto. Cioè, ha iniziato la frase Razzi col suo celebre consiglio e l'ha finita che secondo lui Renzi gliel'aveva detto, praticamente. Un genio. Ma non lo so. Ai pensieri che si materializzano, Razzi. Ai pensieri, esatto. Cioè, dai pensieri gliel'ha già detto, praticamente. Ma no? Che se la lotta libera con la sintassi fosse una specialità olimpica, loro non ce lo toglie nessuno. Di la verità. Robecchi, tu ma che è una specialità paralimpica. Tu che lavori anche con Crozza, caro Alessandro, è tutto come dire, acqua, grasso che cola, tutto lavoro per te, tutto. Voglio dire, dovresti ringraziarlo, dovresti dire una preghierina. Razzi è il miglior imitatore di Crozza che imita Razzi, quindi ormai siamo al testacoda. Effettivamente così. Allora, ecco qua che arrivano già le domande, attenzione. Caro De Manzoni, ti inchiodano al muro, la verità, non puoi mentire. Quanto costa la verità? La verità costa tanto, perché la verità, insomma, almeno 15 euro. No, la nostra verità costa pochissimo, un euro. Poi chiedono: quanto prendete di finanziamento pubblico per i giornali? Niente, ho appena spiegato che siamo messi insieme, abbiamo trovato un po' di finanziatori, ma privati, non pubblici. Assolutamente privati. Erano queste 2 domande, niente di più. Giusto che li faccio. Mi fa piacere. Un euro solo. Ogni 2 giornali ne regaliamo uno. Un euro solo. Perfino Robecchi può andare edicola. Posso permettermi la verità, può, può permettersi la verità. Tra l'altro, ragazzi, oggi no, lo leggo a pagina 4 della Verità, ma lo leggo anche sul Fatto Quotidiano, sempre a pagina 4. Allora, c'è questa storia che De Bortoli, Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Sole e del Corriere della Sera, ha detto in un dibattito pubblico che a Montepaschi, come dire, Robecchi, non lo so, io ho paura, lo vuoi dire tu? Perché no, no, sì, che c'è, diciamo, un po' di quel profumo di compassi, grembiulini. Tra l'altro hai detto una parola, profumo, non a caso, perché lo stesso profumo invece, scrive oggi il Fatto, scrive la Verità, profumo, ha detto De Manzoni, dillo tu perché io non, anch'io, ho paura a toccare quegli ambienti. No, profumo dice che il problema di MPS è stato dettato più da ambienti massonici addirittura che dalla politica, e la sapendo quanto la politica conta in MPS, deve essere stata proprio una roba pesante. Del la resto, massoneria. Cioè, del resto, il nostro Amadori, che adesso lavora alla Verità, ma quando eravamo a Libero, sia io che lui, e che Belpietro, ha tirato fuori delle carte piuttosto pesanti sulla massoneria e banche Etrurie. Quindi vuol dire che nelle banche, almeno nelle banche toscane, questo profumo, diciamo così, aleggia, cioè, aleggia pesantemente. La massoneria. Comunque io vorrei parlare con qualcuno che a gennaio, quando il presidente del Consiglio Renzi è andato in televisione a dire adesso MPS è tutto a posto, anzi un buon investimento, comprate, comprate, ecco, vorrei parlare con uno che ci ha creduto in gennaio e che ha comprato delle azioni MPS in gennaio. Ecco, forse quello lì ci può spiegare, non la massoneria per carità, però forse quello lì ci può spiegare la lungimiranza del Presidente del Consiglio. Vabbè, insomma, ma la massoneria mi sembra una di quelle cose, come dire, non dico del passato, non voglio fare l'ingenuo, no, ma sono quei titoli che magari mi sarei aspettato all'epoca di Licio Gelli, no? La massoneria, invece ancora è così. Ma insomma, cioè, Carboni massone, per esempio, no? Non lo ammette lui stesso. Papa Boschi interpellò Carbone per cercare di risolvere i problemi di Banca Etruria e andò nel suo ufficio, messo in contatto da altri massoni, ma insomma, qualcosina c'è. Comunque non è una cosa nuova, perché due anni fa in un famoso fondo, ancora da direttore del Corriere, De Bortoli lo disse, c'era uno strano odore di massoneria, quindi insomma non è una cosa nuova. E poi, infatti non è più il direttore del Corriere. E non accade, ma al di là della massoneria, di cui, come dire, non mi intendo, se non come mi sembra una cosa un po' folcloristica, anche a me ottocentesca, eccetera eccetera, è un dato di fatto che nelle banche, soprattutto nelle banche molto legate al territorio, penso alla Banca Etruria, penso a Monte dei Paschi, i potentati locali, la politica, questo, i cacicchi di varie forze, diciamo, non è un mistero questo, no? Anche quella è una specie di massoneria, diciamo, no? Che abbia un po' di influenza. Va bene, allora facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi siamo... Ah, vedi qua, De Manzoni, la gente non ci crede. Ma come? La Verità costa così poco? Allora, se costa così poco non va bene, non è autorevole. Cioè, come la fai la sbagli? Dovevate metterla a 5 euro, vedi? Lo vogliamo rendere accessibile a tutti, provatela, dopo ce lo dico. Va bene, intanto andiamo al traffico, poi vi faccio sentire una grande amica, sicuramente di De Manzoni ma anche di Robecchi, tra poco. Mamma mia, non ce la faccio più, non ce la faccio più, e datemi sto benedetto traffico. Forza Inda! Ma quelli che abitano nelle zone rurali, dove li spendono tutti gli euro per la cultura? Voglio Livio Fanzaga! Livio Fanzaga! Milan, sai che ti voglio bene, ma ti informo che lo squalo toro e lo squalo leuca sono una piaga in certi fiumi, perché li risalgono per centinaia di chilometri e si mangiano un sacco di persone. Ma io con la Raggi non lo conosco, è una bella femmina, però lì c'è da lavorare, lì non c'è la sfilata di moda, lì bisogna lavorare. E così Antonio Razzi sulla Raggi. Sì, devo fare mia colpa. Ieri ho preso per il culo a lungo Rienzi del Codacons, perché ha detto che c'erano gli squali di fiume in Zambia. E ho detto: ma come gli squali di fiume? Ma hanno subissato di messaggi, sms, messaggi in segreteria. Sì, gli squali leuca nel fiume. Capito, Robecchi, l'ignoranza è una brutta cosa. Pure tu, però. Mamma mia, ragazzi. Non presentarsi senza studiare gli squali di fiume. Veramente una cosa terribile. Allora, io non sapevo neanche che c'erano i fiumi in Zambia. Pensa. Pensavo, non sapevo neanche che esistessero gli squali. Questa era più grave. Era più grave. Allora, vi voglio sottoporre questa. È un nome e un cognome. Un mito per molti italiani. Gianni Morandi, signori. Gianni Morandi, che ha compiuto un gravissimo attentato alla libertà, alla civiltà, è andato a fare la spesa di domenica. E andando a fare la spesa di domenica lo ha fatto sapere su Facebook. E la gente, De Manzoni, l'hanno inchiodato alla croce perché non si va la domenica per rispetto. Tu sei andato la domenica, hai capito? Cioè, questi... sì, cioè, è la classica ordalia da web. Ne abbiamo, mamma mia, assistito. Cioè... C'è chi poi non resiste e si ammazza delle volte. Questo è un altro paio di maniche. A me dispiace solo che Gianni Morandi poi alla fine abbia chiesto scuse. Sì, esatto, non andrò più la domenica. Sì, allora non andare al cinema dove ci sono quelli che lavorano e strappano i biglietti. Non andare, non comprare i giornali al lunedì, gli edicolanti che lavorano la domenica. No, ma, cioè, non prendete i treni, non andate in aereo la domenica, no? Sì. Eccolo qua. Ma il comunistone Robecchi avrà sicuramente una buona parola per no. Sì. No, io, per criticare io ogni tanto purtroppo mi capita di fare la spesa la domenica perché lavoro gli altri giorni e quindi si può. Detto questo, ci sono paesi civilissimi in Europa, dico per uno per tutti, la Francia per esempio, che non mi sembra esattamente il Burkina Faso, dove alla domenica i supermarket sono chiusi per il semplice fatto che il lavoro non deve essere una variabile indipendente, deve essere una variabile dipendente, deve essere una cosa che riguarda tutti e che ha i suoi diritti. Ho capito, come, ma cosa c'entra? Si danno i turni. Ma infatti si lavora per turni, no? Si danno i turni. Come spesso sappiamo, non sempre sono scelte, come dire, liberissime da parte dei dipendenti. Lavori domenica? Sì, volentieri. No, non è così, lo sapete tutti. C'è un po' di ricatti. Certo. Come in tutti i posti dove, diciamo, il lavoro è poco specializzato, no? Cioè, a uno scienziato forse ha una risposta più libera, mentre invece una commessa alla cassa del supermercato a volte può non permettersi di dire Ma io non penso che un pilota d'aereo possa permettersi di dire che non vola la domenica se non ne ha voglia. Vabbè, diciamo, il pilota d'aereo è anche un servizio, diciamo, è anche un servizio, come dire, di pubblica utilità e fondamentale. Comunque, insieme a Massimo De Manzoni, condirettore della neonata Verità, e Alessandro Robecchi, firma del Fatto, noi abbiamo iniziato da ieri una rubrica che ci porta un po' nel mondo, perché ogni giorno vogliamo più o meno ogni giorno scovare uno dei nostri ascoltatori che ci ascolta dall'estero, visto che noi raccontiamo le prime notizie del giorno qui dall'Italia. Invece oggi Marco da Dubai. Buongiorno Marco. Buongiorno Alino, buongiorno a tutti. Allora, tu ci ascolti da Dubai, quando, come, perché? Sempre. Allora, quando tutte le mattine, purtroppo dal lunedì al giovedì, perché noi lavoriamo dalla domenica al giovedì, e quindi domenica mattina la sveglia è un disastro, perché senza 24 mattino non si può andare a lavorare. Ma a Dubai, visto che qua si parla di queste cose che hai sentito, a Dubai di che si parla? E fai finta di capire l'arabo quando leggi i giornali. Allora, per fortuna i giornali sono anche in inglese, sì? Quindi riesco a cavarmela. Allora, ho qua davanti il giornale di oggi, con una prima pagina che finalmente è una notizia interessante, perché qui purtroppo spesso le notizie non sono... sono un po' dalla carta costa. Sì. Mentre oggi abbiamo questa notizia: a Riyadh, in Arabia Saudita, è stato sventato un enorme piano terroristico di Daesh o dell'ISIS, sono state trovate 25 tonnellate di esplosivo e i progetti per 3 diversi attentati nel paese. Beh, insomma, di questo non si sa niente sui giornali italiani. Beh, una buona notizia che l'abbia sventato, però insomma. Marco, dici che ci fai a Dubai? Purtroppo ci siano questi problemi. Fai a Dubai? No, aspetta Marco, che dobbiamo chiudere. Che fai a Dubai? Dimmi un po'. Io che cosa faccio a Dubai? Occupo di... della parte commerciale di un'azienda italiana che fa cavi elettrici. Quindi diciamo che sono un supporter del Made in Italy in Medio Oriente. Da qui mi occupo poi di tutta l'area. Bene. E allora grazie Marco per questo sguardo sul mondo, così dall'Italia noi allarghiamo anche gli orizzonti. Ci fermiamo qui, grazie a Alessandro Robecchi e a Massimo De Manzoni. Allora ci ritroviamo presto, state con noi, tra poco c'è la rassegna stampa dopo il giornale radio. Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milan, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Allora mandate le vostre sigle nuove come questa al 349-238-6666 via WhatsApp in audio. Sbizzarritevi, chissà che la vostra sigla non possa diventare la sigla di apertura della rassegna stampa di 24 mattino. Siamo qui a leggere i giornali con le notizie che ci portano. Tra l'altro oggi salutiamo la nascita di un nuovo quotidiano in edicola, ma andiamo tutto a scoprire tra poco. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. È martedì 20 settembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre così: borse, bond in rialzo, il petrolio lancia il rally, il greggio torna a salire, l'Europa recupera meglio di Wall Street. Questa è l'apertura dunque sui mercati finanziari. Poi la notizia che proviene dalla Libia, che riguarda due italiani, è l'apertura per molti quotidiani. Due italiani rapiti in Libia, così il Corriere della Sera. Per Repubblica, Libia, rapiti due tecnici italiani, preso l'attentatore di New York. Anche La Stampa, agguato all'alba, sequestrati in Libia due tecnici italiani. Il Giornale, Renzi si fa rapire altri due italiani. Così il Giorno, il Messaggero su questa notizia. Mentre l'Unità apre su New York e se la prende con Trump, i giorni dello sciacallo. La paura aiuta i populisti in Germania e in Russia e Trump soffia sulle bombe di New York. Il Fatto Quotidiano invece per il secondo giorno consecutivo apre su Siena, il Monte Paschi e la massoneria. Monte Paschi, profumo con De Bortoli, ho visto i massoni all'opera. Parla in una dichiarazione l'ex presidente del Monte Paschi. E dicevamo appunto del nuovo quotidiano, è La Verità, è di Maurizio Belpietro, dopo che è uscito da Libero, e apre oggi, è in edicola da oggi, al prezzo di un euro, le intercettazioni di Casa Renzi nell'inchiesta per bancarotta, racconta Giacomo Amadori di un'indagine della Procura di Cuneo in cui figurano intercettati i genitori del Premier con due persone indagate. I genitori del Premier non sono indagati, ma parlano con una persona indagata. Mentre Libero, coraggio Renzi, molla l'Unione Europea. Questa è l'esortazione in titolo di prima pagina. Allora, la Libia torna prepotentemente alla ribalta, questa volta ci riguarda perché più da vicino, ancora più da vicino, perché due connazionali sono stati rapiti. Si tratta di Danilo Calonego, 68 anni, del Bellunese, e il secondo invece è Bruno Cacace, residente a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, 56 anni, Calonego invece ne ha 68, erano lì a lavorare, rapiti da un gruppo armato. Questo è il titolo di pagina 2 del Corriere della Sera. Ovviamente la cronaca riguarda la cittadina di Ghat, che è all'estremità sud della Libia, al confine con l'Algeria, dove erano lì a lavorare e sono stati rapiti. Ovviamente si cerca di fare presto, come dice il ministro degli esteri Gentiloni, in un'intervista a Repubblica in cui parla di tante cose, parla anche di questa vicenda dicendo: siamo in contatto giorno per cercare di risolvere la situazione. E tra l'altro Gentiloni, dopo aver detto seguiamo il caso minuto per minuto da ieri mattina, si trova a New York, parla di altre tematiche dell'immigrazione che tra poco vedremo, ma è chiaro che si pensa subito a che cosa: o una pista di criminalità comune, o quello che sarebbe ancora più grave, una pista di estremismo islamico. Ma in quella zona si propende per la prima ipotesi. Come racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 3 del Corriere della Sera, le piste sono predonio gesto politico. L'obiettivo ovviamente è evitare che siano venduti invece a bande magari che vogliono ritorsioni più legate al terrorismo internazionale. L'idea è che in quella zona di Ghat, dove sono stati rapiti questi dipendenti della società Conicos, non risulta la presenza di fondamentalisti, tantomeno di gruppi collegati all'ISIS. Il giallo è il perché si spostassero senza scorta. Questa è la domanda, e una serie di domande per la verità le pone Domenico Quirico, che finì rapito in Siria, grande inviato della Stampa, è andato anche in Libia, e in prima pagina della Stampa Quirico si pone e pone una serie di domande. Scrive: il sequestro di due lavoratori italiani in Libia impone alcune scomode domande. Perché erano lì? Com'è possibile che qualcuno li abbia mandati a far manutenzione in un aeroporto del Fezzan come se fosse un normale appalto in Calabria o in Svizzera, mentre erano in uno dei posti al mondo in cui il caos ha sostituito qualsiasi forma di ordine e la guerra è diventata la normalità quotidiana? E va avanti Quirico chiedendosi: sapevano le due vittime del sequestro tutto ciò e i loro datori di lavoro? C'è purtroppo, quando si parla della Libia, soprattutto a livello di governi, compreso quello italiano, una evidente stonatura. Per paura di ammettere il fallimento colossale delle politiche applicate in quel paese dalla caduta di Gheddafi, si fa finta di credere che siamo di fronte a un paese più o meno normale. Purtroppo non è così. E governi e cancellerie, tra cui anche il nostro, lo sanno bene. La Libia è una di quelle zone del mondo dove sono definitivamente scomparse cose come la diplomazia, la politica. La guerra alimenta la guerra in un infernale gorgo di loschi interessi, fanatismi e bugie. Ammettiamolo, ci sono luoghi al mondo in cui gli occidentali non possono più andare. Sono loro vietati. L'unico loro valore è di essere ostaggi da riscattare a caro prezzo o soggetti da sacrificare a feroci strategie comunicative. L'altra domanda è: chi sono in Libia coloro che sono con noi e contro di noi? Non i buoni o i cattivi, che sarebbe domanda ingenua. Semplicemente bisogna definire chi potrebbe essere per noi un alleato affidabile. Il governo di Tripoli, che non controlla nessuno? Quello di Bengasi col suo aspirante Napoleone? La banda di Misurata? E ancora, chi ha il compito e il potere di definire la lista? Chi sceglie? Il governo italiano? Il Parlamento? L'Unione Europea? L'ENI? Gli interessi petroliferi sono un elemento importante di cui bisogna tener conto, ma costituiscono davvero una buona strada per scegliere una politica in questo luogo del mondo e delegarla? Perché in Libia ci sono 200 paracadutisti che difendono un ospedale da campo? E i due sequestrati nel Fezzan, chi li difendeva? Ecco, tutte queste domande, questa serie di domande le fa Domenico Quirico sulla Stampa. Certo, ora c'è questa situazione da gestire. In tutto questo, a New York invece la situazione si è parzialmente risolta, nel senso che intanto la grande paura sembra passata, perché è stato catturato Ahmad Khan Rahami, afghano di origine, ma si sospetta, si spera che non ci sia una cellula in qualche modo collegata a lui. Preso dopo una sparatoria questo attentatore, nel giro di 48 ore Obama dice: non cederemo alla paura. Le accuse sono un po' verso Trump di soffiare sul fuoco, ne parleremo dalle 8 e un quarto alle 9, a capire anche come questa cosa possa alimentare la campagna elettorale, una campagna elettorale sconvolta, come scrive Marco Valsania da New York per il Sole 24 Ore, pagina 4. L'ombra del terrorismo che si allunga pesante sulla campagna elettorale e Trump che passa all'offensiva, sottolineato di essere stato il primo a chiarire che l'esplosione a Manhattan era una bomba, ha rivendicato la necessità di svolte a favore di una sua piattaforma di legge e ordine di strette sull'immigrazione, azioni per estirpare, eccolo qui anche lui questa parola, il cancro al nostro interno, quando bisognerebbe utilizzare la parola cancro solo per cose legate davvero a questa malattia. Comunque Trump che soffia sul fuoco di questa vicenda, e ne parleremo alle 8:15. Allora, veniamo in Italia, vi segnalo intanto proprio dal nuovo giornale La Verità, diretto da Maurizio Belpietro, un bell'articolo di quelli che ci metterà con una buona predisposizione d'anima. Voi che state andando a lavorare, voi che avete letto vari giornali, voi che avete letto dichiarazioni del tipo alle regioni ci siamo tagliati gli stipendi, leggerete sulla Verità in prima pagina Mario Giordano, in 9 regioni si aumentano gli stipendi. Quelle cose che vi faranno fare un bel respiro. Adesso andate al lavoro più sereni. Avevano proclamato tagli del 20% a tutti i consiglieri, ma con un trucco ci hanno preso in giro. È il paese delle deroghe, deroghine e dei trucchini, ricordatevelo. Ci siamo tagliati lo stipendio, hanno detto i consiglieri regionali del Lazio. Anche noi, hanno detto in Veneto, noi non siamo da meno, così in Piemonte, in Toscana, e avanti con la retorica dei sacrifici. La casta che non è più casta, le interviste roboanti, la politica come servizio. Manca poco che chiedano un obolo ai cittadini per mantenere i figli, e poi il quadretto da Oliver Twist alla regione è completo. E invece, in gran segreto lo stipendio, se lo sono aumentato. Proprio così, aumentato, ve lo dimostriamo numeri alla mano. Oggi in 9 regioni su 20 i consiglieri prendono più di quanto prendevano nel 2010, cioè prima di Rimborsopoli, l'indignazione contro Batman Fiorito, le mutande verdi, lo scandalo per gioielli e vacanze pagate a spese dei contribuenti. E poi Giordano snocciola tutti i numeri a pagina 9 della Verità. Eccolo qui, gli stipendi dei consiglieri, numeri su numeri, che vi faranno certamente rallegrare prima di andare al lavoro. E adesso tutti al lavoro. E invece l'articolo che mi fa pinzare della giornata, caro Mattia, figliuolo mio di 8 anni, che mi chiedi sempre che vuoi iscriverti a calcio, e io ti faccio fare tennis e ti faccio fare basket e ti dico il calcio guardiamolo la domenica, cioè che quello neanche il Milan, poi se poi dobbiamo vedere, vabbè, comunque questo è un altro discorso. Ora ti spiego perché non ti voglio iscrivere a calcio. I genitori sugli spalti si pestano, bambini in lacrime sul campo. Il Giorno, pagina 18, succede a Mariano Comense, dove una partita tra i pulcini, quindi età 10 anni, caro Mattia, sospesa per rissa da saloon degli adulti sugli spalti. Ora tutti a dire è una vergogna. Questo è il commento unanime di tutti gli appassionati di calcio. Per la Verità è successo non a Mariano Comense, ma in una partita tra il Mariano Comense o la Mariano Comense e l'Olginatese. È successo in un torneo a Dubino, in provincia di Sondrio. Comunque, classe Pulcini, finisce in rissa, torneo sospeso, i genitori sugli spalti si pestano e i bambini, 10 anni, li guardano attoniti e in lacrime. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Forza Inter! Forza Inter! Grande squadra cinese della informazione, grande meazza! Ragazzi, liberi tutti, adesso rientrate in voi e va bene, e iniziate le vostre giornate. No, mi piacete tantissimo. Dai, al 349-238-6666 dovete mandare le vostre sigle, così ci piacciono, proprio ci gustano tantissimo. Va bene, allora... Il tema immigrazione è il tema centrale non solo in Italia, non solo in Europa, anche se Renzi dice l'Europa chiacchiera e non fa nulla, ma anche in questo momento all'ONU, nel senso che sicuramente i paesi europei porteranno all'Assemblea Generale dell'ONU anche il tema dell'immigrazione. Renzi negli Stati Uniti, questo è il titolo di pagina 8 del Corriere della Sera, dall'Unione Europea soltanto parole. Tra l'altro è un Renzi che ha respinto le accuse di emergenza dicendo non siamo in una fase di emergenza. Quest'anno ci sono stati arrivi in linea con quelli del 2015. Stiamo parlando di 150-160.000 persone. E di fronte alla previsione dell'inviato ONU per la Libia Martin Kobler, che ha raccontato di 235.000 persone pronte a salpare nuove verso l'Italia, risponde Renzi: pieno rispetto, ma non so su quali elementi concreti si basino questi dati. I nostri sono decisamente diversi, così risponde Renzi. Tra l'altro, torno all'intervista annunciata prima a Gentiloni, ministro degli esteri. Paolo Gentiloni, intervistato alla Repubblica da Vincenzo Nigro, proprio da New York, per l'Assemblea Generale dell'ONU, dice sul tema immigrazione: chi si accontenta di Bratislava non vede la crisi dell'Unione. Bratislava era un vertice convocato per la prima volta dopo 45 anni senza il Regno Unito per discutere proprio dell'Europa dopo la Brexit. Ebbene, dopo la Brexit ci troviamo in Europa in attesa, che rinvia i problemi di crescita economica e migrazioni. Proprio per questo tema l'Unione si muove a passo di lumaca di fronte alla minaccia più seria che la sua unità abbia dovuto fronteggiare. E risponde Gentiloni anche al sindaco di Milano Sala, che ieri con una lettera alla Repubblica ha chiesto maggiore coordinamento sul tema dei migranti. È vero, risponde Gentiloni, serve un salto di qualità nelle politiche di accoglienza e migrazione e integrazione, scusate. Beh, questa l'abbiamo sentita veramente da 30 anni. Si farà? Non si farà? Il governatore della Lombardia Maroni chiede, sull'onda di quello che ha chiesto Sala, intervistato dalla Repubblica, i caschi blu dell'ONU per un'operazione di life keeping sulle coste africane, per allestire e gestire lì i campi profughi per identificare le persone. Il titolo dell'intervista: Sala ha ragione, per fermare i profughi l'ONU deve mandare i caschi blu in Africa. Questo Maroni. In tutto il governo, come annunciato ieri dal Corriere della Sera, oggi torna su questo tema Fiorenza Sarzanini, propone una task force per centralizzare la questione a Palazzo Chigi e, udite udite, è in arrivo la nomina di un nuovo commissario. Non è Cantone, state tranquilli, non è che c'è un Cantone buono per tutte le occasioni, ma un commissario per gestire i profughi e le strutture definitive dove poterli ricollocare. Ci sono già 6 caserme pronte per alleggerire gli enti locali, insomma, invece che mandarli nei comuni, mandarli nelle caserme. Questo racconta il Corriere della Sera, un commissario in arrivo, staremo a vedere. Lasciamo il tema migrazione, veniamo al tema politico, i temi politici. Vabbè, intanto l'Italicum, ieri c'è stata una novità perché la Corte Costituzionale, avevamo detto il 4 ottobre, avrebbe dovuto decidere sulla legittimità costituzionale, appunto, della legge elettorale Italicum, questo su ricorso di alcuni magistrati, in particolare Messina, Torino e anche Perugia. La Corte Costituzionale, però, visto che l'Italicum sarà sottoposto a referendum popolare, visto che l'Italicum è compreso nella riforma costituzionale, ha deciso di soprassedere per il momento l'Italicum alla consulta dopo il referendum. L'obiettivo è proprio quello: non influenzare il voto del referendum. È dunque rinviata l'udienza del 4 ottobre sulla costituzionalità del sistema. Si farà a Natale o l'anno prossimo. La Corte vuole evitare strumentalizzazioni. Tra l'altro, alla Camera arrivano le prime mozioni per cambiare la legge. Sapete che c'è un dibattito, perché molti dicono è innaturale che l'Italicum sia incorporato all'interno di una riforma costituzionale, e quindi ci sono proposte per la modifica di tutto ciò. Comincia ad arrivare alla Camera le proposte di modifica, appunto, di legge elettorale, e questo è il tema elettorale. Poi c'è il grande tema delle Olimpiadi, e racconta Il Messaggero, come racconta Il Fatto Quotidiano, che ormai il dado è tratto: Virginia Raggi domani dovrebbe annunciare in una conferenza stampa il no ufficiale alle Olimpiadi, alla candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024. Lo strappo della Raggi, domani l'annuncio, posizione articolata, la tensione con il CONI, questo è il titolo del Messaggero Simone Canettieri. Anche Il Fatto Quotidiano è sicuro: Raggi, ecco il no ai giochi, domani l'annuncio del Movimento 5 Stelle. Verrà fatta una conferenza stampa, al momento non c'è l'assessore al bilancio perché il nome che pareva certo è saltato, ma tra un guai e l'altro, racconta Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano a pagina 4, dopo giorni di tensione, dopo giorni di caos, la vicenda dei giochi ha una svolta. Tra i 5 Stelle si è fatta strada l'idea di annunciare il veto alle Olimpiadi il giorno prima di una conferenza stampa che voleva in qualche modo, da parte del CONI, lanciare la candidatura ufficiale. Insomma, l'ultima carta per Malagò per far cambiare idea al Movimento 5 Stelle verrà in qualche modo sparigliata domani, questo almeno assicurano il Fatto Quotidiano e il Messaggero, con un anticipo da parte di Virginia Raggi a dire no, le Olimpiadi a Roma no. E vedremo che succede. C'è poi, sempre per quel che riguarda la politica, Berlusconi che ha visto ieri Salvini, e l'articolo di Marco Cremonesi a pagina 14 del Corriere della Sera è forse il più completo, perché il tema è che Salvini vuole incontrare Berlusconi, nonostante ne abbia parlato anche un po' duramente a Pontida, e non Parisi, che è identificato come il nuovo possibile leader del centrodestra. Berlusconi però ha rassicurato Salvini, secondo il Corriere della Sera, dicendo: stai tranquillo, il capo sono sempre io. Così Berlusconi a Salvini: capito, caro Mauro Meazza, anche il tuo capo sono io. Cioè sei tu, buongiorno Alessandro. Che autorevolezza, cioè, dovevi metterti sull'attenti. Praticamente ti sei messo a ridere. Pensavo mi dicessi stai sereno, guarda un po'. Ecco. Quindi, ma forse gli ho detto stai sereno. Forse sì, chi lo sa. Senti, ho molte cose da segnalarti, quindi andiamo un po' rapidamente. Naturalmente, sì. Ringrazio ovviamente l'ascoltatore che ha mandato la simpatica sigla, ascoltata poc'anzi. Allora, innanzitutto, hai preso in edicola i tuoi diritti, oggi eccolo secondo lì. Fascicolo, no, non venire poi a cercarmelo, oggi parliamo di lavoro. Benissimo. Capisco che forse tu e io non siamo interessati a questo aspetto, però c'è tanta gente invece che lavora e quindi può essere utile avere questo volume che si occupa dei cambiamenti, soprattutto dopo il Jobs Act, o Job Act, come diceva il nostro amico Angelino. Poi ti voglio segnalare, prosegue il lavorio per le misure sulle pensioni da inserire nella legge di bilancio, che prima si chiamava di stabilità, prima ancora finanziaria, ma insomma la sostanza è, come riferiamo oggi, nelle prime pagine del Sole 24 Ore, si sta ragionando a un bonus per consentire il ritiro anticipato dei lavoratori molto precoci, cioè pre-16 anni. Del rinvio dell'Italicum, della discussione, meglio, della consulta che deciderà solo probabilmente a gennaio, hai detto, ne riferiamo, ne dice Donatella Stasio oggi nelle pagine di politica, e poi ti segnalo, c'è il progetto per modificare gli esami di terza media e di maturità, devi leggere a questo punto, Tucci, nelle pagine dei commenti, perché sparirà il quizzone, tra l'altro. Ah. Hai presente il quizzone, quella cosa che terrorizza, ha terrorizzato per un po' di anni i maturandi? Ecco, invece lo toglieranno. Nelle pagine di finanza che leggerai? Avidamente, bravo, scoprirai almeno due cose interessanti. La prima, ci sono stati i primi risarcimenti per Etruria. Gli investitori, ti ricordi, Banca Etruria, come no? Partiti i primi risarcimenti, te lo spieghiamo oggi in finanza. E poi c'è tutta un'offensiva europea per far pagare le imposte dovute, tra l'altro anche a Engie e poi a McDonald's, ma soprattutto ti volevo segnalare che Google in Indonesia avrebbe pagato lo 0,1% di tasse, che non è male. Non è male per tutti noi, potremmo Volevamo indicarlo anche come percentuale nuova per l'IRPEF, visto che, ne riferiamo oggi sul Sole, si parla anche di un taglio all'IRPEF, questo 0,1 non mi sembra male. Ultime cose, ma non per questo meno importanti. Allora, l'articolo da meditazione di oggi è l'analisi di Moria Longo in pagina 3, che ti spiega cosa sta succedendo tra banche centrali e mercati finanziari. Articolo da meditazione. Naturalmente c'è la pagina di condominio. E poi sappi che se regali un diamante e un quadro di Picasso, sì, e poi però puoi anche chiedere che te lo la tua compagna e il tuo compagno te lo restituiscano, perché è un regalo, va bene, però se poi la relazione poi finisce male, certo. Guarda, spiega tutto la Cassazione, lo trovi nelle pagine di Norme e Tributi che leggerai religiosamente. Bravissimo. E allora a questo punto traffico. Giobacche, visto che parla sempre di lui Giobacche, e lo chiamo. Seta tito tita tito tutti tita tito, dialetto ferrarese. Mi fido ciecamente, caro ascoltatore. Ah, mandatecele anche in dialetto, le vostre sigle al 349-238-6666. Allora, prima Mauro Meazza citava, ma anche Etruria, rimborsi, effettivamente arrivano i primi rimborsi. C'è da dire che su Banca Etruria, però, e su altre banche, o meglio la banca toscana, la Montepaschi, ben più celebre, ci sono le rivelazioni al secondo giorno che il Fatto Quotidiano apre su questo, ma oggi anche La Verità, il nuovo quotidiano di Belpietro, dedica una pagina a questo tema. Si parla di poteri occulti, di massoneria. Beh, c'era stato qualche anno fa già l'editoriale dell'allora direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, che in qualche modo in un incontro pubblico ha ribadito l'odor di massoneria per la vicenda Etruria Montepaschi, e ora la rivelazione di Profumo, che è stato presidente di Montepaschi, l'ex presidente, che dice: ho trovato i massoni nel Montepaschi. Profumo ha sentenziato: anche la massoneria ha distrutto il Monte dei Paschi. Questo è il Fatto Quotidiano con Carlo Tecce, ma oggi anche appunto La Verità. Profumo denunciò: nella vicenda Montepaschi più della politica conta la massoneria. E Ale, un qualcosa che sembrava così affondato nel passato, che riemerge prepotentemente in prima pagina. Per quel che riguarda la cronaca, vi segnalo questa terribile vicenda di Roma, massacrato di botte in metropolitana per aver chiesto di non fumare a due ventenni, uno di 20 anni, uno di 24 per la verità, e uno di 26 anni, uno di Aversa e uno di Caserta, che stavano fumando sulla metropolitana. E allora Maurizio Di Francesco Antonio, 37 anni, di Tivoli, che viaggiava con la madre sulla metropolitana, si è avvicinato a uno di loro dicendo: qua non si può fumare, apriti cielo. Il classico: ma che bip vuoi? E poi giù una fracassata di botte. La madre intervistata dice: l'ho difeso, hanno picchiato anche me, nessuno ci ha aiutati in metropolitana. Una pagina del Corriere della Sera, ma anche Il Messaggero dedica una pagina intera a questa vicenda, anche perché tra l'altro questa persona, che si è permessa semplicemente di far notare che non si potevano fumare in metropolitana, ora si trova in gravi condizioni per le botte alla testa subite in ospedale. E questa davvero è una vicenda molto molto triste. Che dire della vicenda di Nicotera? Chiedo venia, ieri l'ho pronunciato Nicotera e sono stato subissato da giusti rimbrotti. Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, dove questo matrimonio ha avuto anche l'arrivo in elicottero degli sposi. Uno degli sposi è imparentato con uno della famiglia Mancuso, in odor di 'ndrangheta, così raccontano i giornali. E certo che la regia di tutto questo è di quello che fece anche l'elicottero nel celebre funerale di Casa Monica a Roma. È già prima coincidenza. E poi il sindaco che dice: ma io non ho dato nessuna autorizzazione, racconta La Stampa con Gaetano Mazzucca che il sindaco era tra gli invitati del matrimonio. Il sindaco, il vice sindaco Francesco Mollese, il sindaco invece Franco Pagano, ma come, non ha dato l'autorizzazione ma risulta tra gli invitati al matrimonio? Non sappiamo se fosse in piazza, ma è tra gli invitati, quindi se non altro sapeva che c'era un matrimonio, magari poteva controllare, però lui dice che non sapeva nulla. Sta di fatto che questo è successo. Va bene, state con Gianni Morandi o state contro Gianni Morandi? Vi rendete conto che paese è questo? Quello in cui hanno criticato Gianni Morandi perché è andato a fare la spesa la domenica al supermercato. E allora sui social è stato un massacro. La domenica non si va nei supermercati dove lavora la gente sfruttata. Questo è stato il leitmotiv. E invece no, invece si può andare al cinema dove ci sono i bigliettai che strappano i biglietti. Non si capisce perché quelli non dovrebbero essere considerati sfruttati. Si può andare, che ne so, in un bar. Tutti quelli che lavorano nei bar aperti sono degli sfruttati. Ma una roba da paese, da quinto mondo, criticare uno perché è andato a fare la spesa la domenica. Il problema è che Morandi ha chiesto pure scusa. E come scrive oggi Massimo Gramellini in Prima della Stampa, è proprio questo il lato tenero della vicenda. Morandi, che avrebbe potuto andare a lezione di sadismo web da Mentana, zittire i moralisti della domenica ricordando loro quante volte saranno entrati in un bar, in una pizzeria nei giorni festivi, invece in preda alla sindrome di Stoccolma, o forse la sua innata gentilezza, il distruttore inconsapevole di famiglie si è scusato perfino di aver augurato buona domenica, ha promesso che non si avvicinerà mai più a un supermercato durante le feste comandate. Ma perché, Morandi? Ma vai tranquillamente la domenica a fare la spesa dove è aperto. È aperto per permetterti di andare a fare la spesa. Tutto qui. Ah, che paese, ragazzi, che paese. La carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali è Marcuzzi versus Blasi, le regine della casa. Qual è la casa? Sì, lo sapete, è quella casa lì, quella del Grande Fratello. Ma chi se ne frega!